questa canzone è una canzone molto vecchia tunisina, però questa versione la canta una ragazza americana, ma tunisina pure ovviamente, che è diventata famosissima in America e hanno fatto tutto un programma dedicato a lei e a questa canzone. Parla di un ragazzo innamorato di una ragazza un po' scura di colore e la sta difendendo davanti alla società e soprattutto davanti alla sua famiglia, e le vuole convincere che lei è il suo amore, che vuole stare con lei. Niente. Bellissima, bellissima canzone. Io tocchiamo un altro tema che so che ti è molto caro a te, come ti è cara comunque la libertà di ogni popolo. La volta scorsa abbiamo avuto come ospite un ragazzo palestinese. È un termine di una settimana, cioè precisamente sabato 1 dicembre, l'ONU ha votato in modo schiacciante per il riconoscimento della Palestina, che è diventato così il 194esimo stato del mondo. Adesso vorrei sentire anche cosa da dire, Peppe, su questa votazione dopo tantissimi anni di conflitti. La mia considerazione al riguardo, sì, sicuramente è stato votato uno Stato, ma mi ricorda tantissimo una situazione vissuta tanti e tanti anni fa, quella degli indiani d'America, ospiti del loro stesso territorio. Sentiamo la parola di Peppe e dopo poi... Appunto, Peppe che è comunque simpatizzante molto di questo. E poi sentiamo Jos che aveva scritto anche un bellissimo articolo su al riguardo. No, infatti comunque è stato chiamato, è stato dato lo status di stato osservatore, non membro dell'ONU, non è stato riconosciuto come stato, è un po' diverso. Diciamo che ancora per il riconoscimento dello stato di Palestina ci vorrà tanto tempo. Purtroppo il potere dell'America nell'ONU è enorme, quindi dato che Israele è amico dell'America, il riconoscimento dello Stato palestinese sarà abbastanza arduo. Il dato politico interessante è che stati europei come l'Italia, che erano sempre stati filoamericani nel passato, hanno espresso il proprio parere favorevole, hanno dato il sì a questo riconoscimento di Stato osservatore della Palestina. Che soltanto ora diciamo che è una cosa abbastanza simbolica, questo stato osservatore non è assolutamente una vittoria, ma è il primo passo per far riconoscere la Palestina come stato, che è quello che si meritano i palestinesi, perché alla fine sono nella loro terra, sono nati e cresciuti là. Non è giusto che il governo occupatore di Israele non li lascia vivere nella propria terra e che li massacri dopo tutto questo tempo. Vediamo Jos, che essendo di cultura filo-araba, vediamo cosa ha da dire lei. Allora, io infatti a casa mia, per strada, nei supermercati, dappertutto, vedo tutti dispiaciuti che piangono per Gaza e per la Palestina. Fino ad un certo punto gli dico va bene, ma questo pianto non ha nessun senso tranne confermare il concetto della nostra sensualità e la irragionevolezza degli arabi del XXI secolo. La causa palestinese non si risolve con le lacrime e le emozioni, neanche con l'entusiasmo, le urla, gli slogan, scritti in qualsiasi modo. Invece si deve lavorare, lavorare tanto, e l'unico modo è la scienza, perché Israele, che noi ignoriamo, è fra i più grandi stati che dedica il 4,7% del PIL alla ricerca scientifica, mentre noi dedichiamo solo il 0,02% per cento, oltre alle sue 8 premi Nobel. In poche parole, se vogliamo vincerla, dobbiamo superarla nella scienza e la civiltà. Cosa stiamo aspettando? Forza scienza. Lavoriamo in silenzio. Questo è dedicato alla Palestina. Sto piangendo lacrime, sangue, di tutto per la libertà della Palestina. Stanno soffrendo, poverini, stanno morendo bambini innocenti. che non hanno nessuna colpa in questa guerra. Non è giusto. Bellissimo, bellissimo articolo, Yos. E a riguardo, sì, stanno morendo tantissime persone, però dall'opinione pubblica e la gente in generale non conosce minimamente il problema, anzi, come diceva lunedì scorso Ahmed, sono strumentalizzati, no? Dai media, da quello che leggono, quindi vedono la Palestina come qualcosa da sconfiggere, da eliminare, e anche comunque il volto musulmano in generale, che continua a farsi strada in modo negativo nel mondo occidentale, comunque sempre avendo un occhio di riguardo per le persone che provengono dall'Islam. Vuoi aggiungere qualcosa? Io dico che non è più la religione, vabbè, la religione è l'origine di questa guerra, di questa terra che dove sono nate tutte queste tre religioni. Però dico che più è una guerra di territorio, perché vogliono il territorio. Vabbè, lo vogliono perché c'è la loro religione, è nata e ha vissuto in quel territorio. Però secondo me, non so se sbaglio, però penso che meglio si dividono il territorio. E no, non dividerlo, però a vivere insieme più che altro. Ce la fanno se vogliono. Vabbè, certo, ce la fanno se vogliono, alla fine. Meglio di fare la guerra e uccidere e vedere sangue dappertutto. Pace e pace. Grandioso, Yos. Ok, passiamo a un altro pezzo. Peppe, quale ci consigli? Volevo passare un pezzo da dedicare al nostro amico Natale, che oggi compie gli anni. Mandiamo un pezzo blues come da lui gradito, Sweet Home Chicago. Baby, don't you want to go? E ritorniamo in studio, 22:34, Clandestino Cid, in onda su Fuori Onda Radio. Abbiamo elencato dall'inizio della puntata, vi faccio un po' un sunto. Yos viene dalla Tunisia, ci ha elencato un po' la situazione socioculturale che vive adesso la Tunisia. Successivamente siamo passati a parlare della Palestina. Entrambi abbiamo chiesto a gran voce la liberazione di questo popolo, la libertà e la pace per questa terra. Adesso ci spostiamo un po' in Italia. Con la scusa saluto il nostro inviato speciale, Tarlo, da Roma, perché questo argomento solitamente vengono trattati da voi, questi argomenti. Niente, è la nostra rubrica settimanale, le Vaticanate, e oggi ci troviamo a Pantelleria, dove viene arrestato un frate per accusa di pedofilia. Il frate è accusato di abusi su un ragazzo di 12 anni. Bellissimo, quindi si prova. C'è la religione, nel senso preghiamo per andare in paradiso, non commettere atti impuri, non nominare il nome di Dio in vano. E intanto Pantelleria, come in tante altre circostanze, i frati abusano del loro pseudo potere, perché alla fine sì, essendo uno Stato il Vaticano, hanno potere, è un dato di fatto, un potere che anche in tempi antichi, come ben io ci spiegava prima Yos, ha comunque cercato di censurare, di mettere da parte qualcosa che poteva in qualche modo rivelare verità su cose, che su argomenti che spesso venivano celati. Al riguardo Yos aveva scritto un articolo appunto per elogiare la scienza, e io con la scusa lancio su, ricordando e salutando tutti i martiri della scienza uccisi in tempi antichi, non so per quale causa, la causa assurde, ma cause che ai tempi d'oggi ancora non sono ricordate a dovere. Anzi, se possiamo, come dire, studiare, avere il diritto e anche il privilegio di leggere determinati testi, beh, ricordiamoci che dietro ci sta anche la vita di un uomo, e parecchi uomini hanno dovuto anche ribadire e riconfermare molte tesi. Vai, Yos. Allora ragazzi, io vi parlo della scienza, che è il linguaggio universale di oggi e domani, è il linguaggio comune fra tutti gli esseri viventi, in contatto con gli oggetti ed è in differenza con gli altri sistemi di pensare, perché non ha bisogno di fede, puoi verificare che funziona. Oggi il mio professore di chimica fisica ci ha detto una cosa simpatica e bellissima. Ha detto: la fisica si può capire, la fisica ci vuole bene, e che la differenza fra le persone di oggi non può essere altro che il livello di comprensione della fisica e della chimica, della scienza in generale, che ci ha portato a scoprire, ad analizzare e a capire i misteri che una volta erano miracoli, cose assurde, dalla più piccola particella subatomica all'universo. Voglio invitare l'umanità a lasciare stare le cavolate che ci dividono e che non dovrebbero più avere importanza, sto parlando sia di politica che religione, colore, ricchezza e povertà, e interessiamoci alla scienza per scoprire da dove arriviamo e dove stiamo andando. Occupiamoci della natura, che è la nostra madre e che, poverina, si è stancata dalla nostra stupidità. Agitate la vostra curiosità, chiedete domande, non avere paura delle vostre tradizioni o religioni. Leggete, leggendo puoi aprire la tua mente e farla respirare cultura, scienza e filosofia. Vi invito tutti ad essere artisti leggendo, poi immaginando. Liberate la vostra immaginazione, che è stata la maestra della comprensione e la creazione. Il proverbio dice: il bisogno è il maestro della invenzione. L'umanità La nostra esistenza ha bisogno di ogni cervello intelligente. Quindi, mi raccomando, mettetelo un obiettivo e capite la scienza. Vi posso consigliare qualche libro interessante che potete leggere tranquillamente. Io l'ho letto in inglese, non so se c'è tradotto in italiano, ma potete vedere. Il libro si chiama The Magic of Reality, che sarebbe la magia della realtà. È un libro semplice, molto interessante, del famoso biologo Richard Dawkins, che ha scritto il capolavoro, non so qualcuno se l'ha mai letto, comunque si chiama The Selfish Gene, che sarebbe in italiano il gene egoista. La magia della realtà tratta in poche parole il concetto della realtà e punta sui suoi aspetti magici. Poi ti chiede chi è stata la prima persona sulla Terra, perché ci sono diverse specie di animali e quando è iniziato tutto. Il Big Bang, forse. Esistiamo soli all'universo e tanti altri soggetti interessanti. E questo, la scienza. Bellissimo articolo, io se lo vorrei ricollegare a quello che ha detto il cantante flautista dei Jethro Tull, Ian Anderson, in un articolo di giorni fa, praticamente diceva che le canzoni possono farci riflettere sui temi ambientali e su cosa fare per salvare il mondo. A proposito, sì Peppe, vai. Andiamo con un pezzo proprio dei Jethro Tull, dopo che hai ricordato il grande artista, nonostante ce ne sia già uno in sottofondo, Bure. Mandiamo one white duck, una papera bianca. There's a haze on the skyline, to wish me on my way. There's a note on the telephone, some roses on a tree. And the motorway stretching right out to us all. As I pull on my old wings, one white duck on your wall. Isn't it just too damn real? One white duck on your wall, one duck on your wall. I'll catch a ride on your violin, strung up on your bow. And I'll float on your melody, sing your chorus soft and low. There's a picture of you postcard to say that I called. You can see from the fireplace, so one white duck on your wall. Isn't it just too damn real? One white duck on your wall, one duck on your wall, one duck on your wall. Contentment, well, the long restless rustle of high-heeled boots calls, and I'm probably bound to deceive you after all. Something must be wrong with me and my brain if I'm so patently unrewarding, but my dreams are for dreaming and best live that way. And my zero to your bar of 10 nothing at all. There's no double lock defense, there's no she ain't on my door. And I'm available for a consultation. But remember your way in is also my way out. And love's four-letter word is no compensation. Si ritorna in studio, Clandestino Cid, seconda puntata della nuova stagione, sempre su Fuori Onda Radio. Ok, Jos voleva leggerci qualcosa che ha scritto, comunque adesso sta diventando abile scrittrice, anche poeta forse. Lasceremo i commenti poi ai nostri ascoltatori, no Jos? Ok, passo la parola Jos. Allora, mo basta discorsi seri, vi voglio dedicare questa poesia. L'ho scritta io a settembre, quando le zanzare mi hanno ammazzata, quando mi alzavo la mattina del sonno, tutta piena di sangue che mi grattavo come una scimmia, perché non trovavo neanche una soluzione per queste maledette zanzare che mi hanno ammazzata. Allora... Il titolo è Zanzara. Cara zanzara, ti ho ammazzata perché mi rendi la vita amara. Tu che mi tormentava, maledetta bestia come girava. Ti corro indietro con il quaderno insetto di merda. Quando ti prendo ti voglio mangiare recuperando il mio sangue, promettendo che la prossima zanzara che vedo la ammazzo ridendo con una cannuccia. E non è solo una minaccia, brutta zanzara che rompi i coglioni, brindo la tua morte con una peroni. Allora, vi saluto, vi raccomando di usare sempre il cervello, di pensare, di liberarvi dai pregiudizi, cacciate l'energia negativa in voi. Cantate, leggete, divertitevi e non perdere tempo, la vita è unica. Peace and love. Ciao a tutti. Grazie, grazie tanto. Io sono, ti salutiamo, salutiamo anche tutti i tuoi amici che sono venuti qui con noi. Devo dedicare tutto quello che ho detto ai miei amici, ai presenti qua. Grazie a voi di invitarmi, mi fa piacere, mi fa pure piacere che c'è ancora scritto quella espressione in arabo sulla lavagna. Ma saluto pure a Manuela che è a casa, ad Antonietta che è a casa e a tutti. Sì? Ciao Manuela! A tutti i tunisini, al mio paese, ai miei genitori, a tutti quanti. Ciao ciao, un bacio! Ciao Jos, a presto! Salutatevi con l'amore! Ciao, salutiamo Jos che torna alle Masonette. Non so dove va. Perché domani ho lezione alle 8:30. Pure io, Jos, che brutto. La lezione alle 8:30 andrebbero abolite dall'Unica. Allora facciamo una raccolta firme da parte di Clandestino che aboliamo le lezioni alle 8:30 della mattina, perché la gente la sera vuole uscire. Come tutti gli studenti, vogliamo uscire e andare a bere una birra con gli amici. Basta questo sopruso delle lezioni alle 8:30. Dopo, ora divertiamoci un pochettino con una tarantella calabrese, dopo aver ascoltato la cultura araba mediterranea turisina. Ora ascoltiamo la cultura sempre mediterranea, però un po' più a nord, quella calabrese. Vai con i Taranta Power. È genio bennato, è napoletano, vabbè. 1998, Tarantella Power is up to date. Millef song at run this nef. Tarantella Power is sorti di lef. La tarantule è l'on de mille. De la campagne è venue en ville. 2001, Tarantella Power all the world around. Profondo su è quella musica che tu all'improvviso imitare, per liberarti del male d'amore, così ballando meridionale, come la tarantella che pizzica il cuore. Siamo di nuovo qui in diretta su Clandestino Cid, sempre su fuoriandaradio.altrevista.org. Ascoltateci come meglio credete, con la pagina web, con VLC, con tutti i programmi che volete. Siamo sempre qua, online, sempre ogni lunedì alle ore 22, puntualissimi come sempre. Quest'anno la puntualità sarà il nostro cavallo di battaglia, che l'anno scorso iniziava un pochettino un po' in ritardo perché c'era qualcuno che doveva mangiare... Tipo, non so chi, uno dei due, non lo saprete mai, chissà chi era quello che doveva mangiare tardi. Comunque, siamo qui di nuovo online, dopo abbiamo salutato Yoss, la nostra ospite, che è la prima ospite di Clandestino Cid, che viene due volte. L'anno scorso è stata la prima ospite in assoluto e quest'anno ci è venuta di nuovo a ritrovare, così giusto perché siamo affezionati agli ospiti, quindi li facciamo ritornare. Una grande famiglia. Siamo tutti amici qua a Clandestino Cid. Che bello. Intanto iniziamo con i saluti di questa sera, così intanto ci trova qualcosa da di sicuri scooter. Salutiamo, vediamo se mi ricordo tutti. Salutiamo Pasquale, Michele, Daniele, Francesco che mi ascoltano da casa. Salutiamo Luigi, non so se c'è. Deborah, la salutiamo 10 volte perché ogni volta lei si lamenta che non la salutiamo. Ciao Deborah, ciao Deborah, ciao Deborah. Così gli rimane. Ciao Emiliana, ciao Rossella, ciao Luca, ciao Bu, ciao a tutti quanti. Passiamo la parola a Ciccio, dai. Io volevo pure salutare un carissimo ascoltatore, Andrea, è tutta contrada Andreotta, by night, consenza. Comunque Peppe, ritorniamo un po' su argomenti seri, direi, molto seri. Partiamo, diciamo, vuoi partire da nord o da sud, Peppe, dimmi tu? Da sud, non so perché. Vabbè, ti godi, diciamo, la costa. Logico. Che blues! Che blues, Lorenzo Blues, un saluto particolare al nostro amico, che... Volevo chiedere a Lorenzo perché ha ammesso che forse parteciperà a Musica per l'Ambiente, la serata che verrà fatta il 12 dicembre in P2, dove il palco sarà aperto a tutti e tutti possono suonare. Una bella serata di musica. Lorenzo Blues, ci servi, ci manca il tuo blues, vieni. Infatti, vieni. E ci colleghiamo sempre in musica per l'ambiente, sempre all'ambiente. Ci troviamo in Sicilia. Vabbè, partiamo dalla Sicilia, poi passiamo anche dalla nostra bellissima regione. Praticamente i Nomu sono determinati ad impedire l'accesso alla base della gru destinata a montare l'antenna. Praticamente, che sta succedendo, Peppe? In Sicilia, praticamente, vicino alla base militare USA, si stanno continuando a montare stantennoni su antenne, antenne su antenne, antenne su antenne, che praticamente sono dispositivi che andrebbero installati in una zona perlomeno distante dai centri abitati. Per esempio, dalle nostre notizie sappiamo che ad esempio negli Stati Uniti sono installate nel deserto del Messico, in zone ampiamente isolate. No, in Sicilia vanno installate vicino ai centri abitati antenne che comunque provocano tumori e seri danni all'uomo, Peppe. Tipo come fanno in Vaticano, che le mantengono distanti dai centri abitati. Infatti il Vaticano è poco abitato, non si trova dentro un'enclave della capitale italiana, Roma. Le antenne di Radio Maria, che sono abbastanza deboli, mi sembra, Ciccio. Tu non so se ti sei mai infilato dentro una caverna con la macchina, l'unica radio che prendi è Radio Maria. Chissà perché, hanno le antenne più potenti del mondo, forse. Qualcuno ci suggerisce che la forza di Gesù da dietro, salutiamo Samuele per il suo stacco, e adesso ci spostiamo più a nord della Sicilia, arriviamo in Calabria, Catanzaro, il 28 novembre, notizia scioccante, ma anche parecchi comuni ringrazieranno, non lo so fino a che punto, si sono riaperti gli impianti del sistema Calabria Sud. Beh, finalmente la spazzatura verrà gestita da una società seria, non voglio dire il nome, e comunque si ha la riconferma della vecchia società sempre, però gli impianti questa volta funzioneranno al 101%. Perfetto, ricordiamo che questi impianti sono abbastanza a norma, tutti quanti, basta che fa un paio d'ore di pioggia e tutto il percolato che va a finire nei fiumi, poi rientra nelle falde acquifere in cui annaffiano le piantagioni e tutte le cose. Diciamo che questa è come inserimento al rifiuto, che in Calabria dura da più di 15 anni. 15 anni, vero Samuele? 15 anni. C'è il nostro mitico Speranza, il nostro commissario all'emergenza. In Calabria 15 anni di emergenza, un'emergenza piccolina che non finisce mai, chissà perché. Forse perché così possono aprire le discariche dove meglio credono, perché siamo in emergenza e quindi si può aprire una discarica sotto la casa di qualcuno, nei terreni, insomma, apriamo una discarica perché c'è emergenza. E poi sto gridando qui, addirittura in studio abbiamo un esponente della rete in difesa del territorio, Franco Nistico, che da anni si impegna alle battaglie ambientali calabresi, quindi diamo la parola all'esperto. No, Peppe forse mi sta confondendo con qualcun altro e io vorrei che stesse attento. Io parlo a nome del lavoro che si occupa in Calabria per fare un lavoro per bene, e a nome di Ecologia Oggi noi abbiamo preso questo pacchetto di 4 deselezionatori con modernissimi, nel senso cose proprio futurastiche, futuribili, e l'ingegneritore di Gioia Tauro. Io vi diffido dal porre qualsiasi dubbio sul funzionamento degli stessi, soprattutto perché voi non state nascondendo un dato, voi sporchi comunisti, state nascondendo un dato che i rifiuti in Calabria sono una cosa molto preziosa, utile, una ricchezza per tutto il territorio. Questa è una cosa che mi sentivo di dire, perché voglio dire, la state palesemente negando. Infatti noi, a nome di tutto il popolo calabro, diciamo sì agli inceneritori! Woo! Io ce n'ho addirittura uno a casa mia, dove incenerisco legna, spazzatura, il mio caminetto, io butto tutto, perché si risparmia, la legna costa cara ora, ai tempi d'oggi. Perché devo andare nel bosco a tagliare legna, quando posso bruciare, la plastica, la spazzatura, che causano soltanto che mandano non mi ricordo come si chiamano nell'atmosfera. Polveri, no, sono polveri sottili, quelle altre cose là. Comunque mandano belle cose nell'ambiente che poi noi tutti ci risperiamo e ci saliamo proprio con queste porcherie che producono questi inceneritori. Diciamo che si parla sempre di che le, quando vengono svinuzzate sono meglio, invece quando sono più piccole fanno più male perché si infilano meglio nei polmoni. Ora, dopo questo excursus ambientale, vorrei mandare un pezzo che parla delle nostre radici, parla del 1800 e qualcosa, prima dell'Unità d'Italia, quando il Regno delle Sicilie era un bel regno, era il più ricco della penisola, c'era... avevamo un bel po' di roba, ma poi sono venuti gli invasori piemontesi che con la scusa dell'Unità d'Italia hanno arraffato tutto e andiamo con questo pezzo. Se tornaste Ferdinando II di Borbone. Stato dei Borboni e l'Italia costruita con promesse e delusioni, distruzione del ricordo dell'amata vecchia terra, una falsa storia che la lingua piemontese narra, una terra trasformata, resa misera colonia, la metafora del male come fosse Babilonia, una terra dove regna incessante l'agonia, instaurata fin da subito dalla massoneria. Quante stragi all'origine di questo bel paese, falsi storici, calunnie di ogni tipo e altre offese. Ogni libro di ogni scuola dice ciò che non è vero. L'invasore è un eroe e l'eroe è un guerrigliero. Capitale all'avanguardia, capitale culturale. Ora Napoli è sinonimo di male nazionale. Fu città che visse d'arte, di teatri, di poesia, di accademie, scuole, stampe, navi, treni, astronomia. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Gente al giorno d'oggi sa qual è la sua bandiera, poca gente sa chi fu quell'uomo che visse a Caprera, che i soldati scesi qui non furono soltanto mille, che distrussero città portando morte alle famiglie. Chi commise quegli orrori scrisse poi la nostra storia, che oggi insegna che fu guerra giusta e rivoluzionaria, descrivendo gli invasori, liberi liberatori, nascondendo che in realtà si depredarono tesori. Venne definito un popolo, un insieme di cafoni, oppressori e stranieri diventarono i Borboni, definiti niente meno che di Dio la negazione, per giustificare meglio la vigliacca usurpazione. Si è saputo che Ricciotti, figlio di Don Garibaldi, fu così indignato che si unì alle armi dei briganti, e persino lui si rese conto dello sfruttamento, di ingiustizie, eccidi, stupri e campi di concentramento. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Eccoci di nuovo qui, dopo un po' di storia passata meridionale, un pochettino di informazione, non lo so, controinformazione, come la vogliamo chiamare, insomma. Diciamo che i libri di storia ci narrano storie diverse, perché sappiamo che la storia la fanno i vincitori, e quindi l'unità d'Italia era una priorità secondo i Savoia, che sono venuti qui a colonizzarci. Niente. Torniamo a parlare di argomenti. Passiamo la palla a Ciccio, vai. No, volevo ricordare che appunto si è accennata a questa unità d'Italia. Napoli nel 1834 proprio a Napoli si diede luogo alla prima raccolta differenziata di tutto il territorio italico, caro Peppe. Invece adesso, tempi contemporanei, vediamo la spazzatura che annega la capitale partenopea. Riguardo, volevo ricordare a tutti che il problema... Su questo volevo dire una cosa, riguardo che nel 1800 e dispari nel Regno delle Sicilie si faceva una raccolta differenziata. Ah, l'hai appena detto? Scusa, stavo... Ok, Ciccio, scusami. Stavo... Vabbè, diciamo che non l'hai detto, dai, si faceva la raccolta differenziata e se ci hanno pensato nel 1800 perché... Diciamo che non è una cosa abbastanza, non è una novità del nostro secolo. E se si fosse seguito dall'epoca questo modo di fare, diciamo che oggi non saremmo in questo stato. Non siete stato voi. Evidentemente la gente non ha ascoltato, come adesso tu non hai ascoltato me. Comunque, volevo ricordare a tutti che il problema dei rifiuti di Napoli non è un problema soltanto dei napoletani, come il problema della TAV non è un problema soltanto dei valsusani. Dobbiamo stare uniti e compatti contro queste guerre, le guerre che ci ha fornito questo pseudo stato. E la gente non va lasciata da sola, anzi se ne deve discutere, se ne deve parlare, si deve agire nel momento opportuno. A riguardo volevo leggere un articolo praticamente dei Notav, praticamente che ci sono ancora nuovi arresti e perquisizioni, e praticamente la storia non è finita lì, anche se in televisione non se ne sente più parlare, i media offuscano tutto, noi siamo per la libera informazione e diciamo questo, siamo lanciati in questo contesto unità, quindi stiamo uniti maggiormente su queste lotte, no TAV e no ai rifiuti a Napoli. Caro Peppe, adesso passiamo ad argomenti, non lo so, più leggeri, ma dipende da che punto di vista, perché alla fine i Maya parlavano di questa fine del mondo, forse ci stiamo arrivando anche per queste cose che stanno accadendo adesso, ma in Cina qualcuno la pensa diversamente e c'è chi ha quasi finito un'arca, una vera arca come quella di Noè, per mettere in salvo tutti gli abitanti della Cina. Non lo so se metteranno una selezione naturale, quali maschi e femmine di ogni specie, ci dobbiamo informare meglio, però siamo informati molto bene su quello che succede in America, che praticamente se volete è disponibile un biglietto solo andata per Marte a soli $500,000. Sì, un giro su Marte me lo vorrei fare io. Giusto perché c'è la terra rossa, tipo, di solito quando si organizzano delle vacanze dove ci sono le sabbie rosse, le sabbie bianche, queste cose qui, il mar rosso, quindi andiamo su Marte a vedere questa sabbia rossa e chissà se si trova anche il mar rosso su Marte. Ciccio, dov'è il mar rosso? È su Marte? No Peppe, il mar rosso esiste veramente, diciamo che è stato luogo di... vabbè, è luogo... di commercio, di negligenze storiche, Magari se avessi, come abbiamo fatto tutti quando eravamo bambini, un po' letto la Bibbia, Peppe, adesso sapresti dire qualcosa in più sul Mar Rosso. Secondo te non so dove è il Mar Rosso, Ciccio? Un esperto di geografia come me. Sappiamo tutti dove non c'è, esiste anche il Mar Nero, il Mar Giallo e il Mar Caspio. È normale, sono tutti colori. Il Mar Caspio che è d'acqua dolce, Peppe? No, è un lago d'acqua salata. No, è salato il Mar Caspio, che sta vicino al Mar Nero. Altrimenti non si chiamerebbe mare. Si chiamava lago o fiume Caspio, non lo so come si chiamava, in qualche modo particolare. Il Mar Morto invece muoiono i pesci, lo sai, Ciccio? Troppo sale. Troppo sale, diciamo che hanno abbondato quando, con il sale, quindi bisogna mettere un po' più di acqua, sennò poi viene troppo salata. Comunque, ritornando al fattore Bibbia, che appunto l'abbiamo citata prima, c'era un articolo del 27 novembre che data, il titolo era praticamente Rivelazione dalla Bibbia, la moglie di Abramo era una MILF. Cioè, Peppe, adesso ci scandalizziamo tanto del fattore, non lo so, prostituzione, qualcosa da abolire, quando alla fine la maggior parte degli italiani che possono e vivono al nord Italia se la spassano in Germania e Svizzera, e lì viene tutelato il lavoro, un lavoro che c'è da secoli, e aiuta anche lo Stato, aiuta lo Stato e aiuta la popolazione, perché sono persone che comunque si attengono a determinate visite mediche e che alla fine non fanno nulla di male, cioè svolgono liberamente una scelta, cosa che non accade qui in Italia, che purtroppo diciamo sì alla prostituzione, data dalla violenza sulle donne, data dallo sfruttamento del sesso femminile e a volte anche a quello maschile. Ciccio, diciamo sì alla prostituzione. Certo, l'Italia dice sì a questo tipo di prostituzione, Peppe. Ma perché tu sei italiano? Ma per fortuna purtroppo lo sono, diceva Gabber, Peppe. No, il fatto che davvero bisognerebbe... Se la prostituzione è una brutta gatta da pelare, purtroppo ci sono un sacco di ragazze che già da 14-15 anni vengono buttate giù per la strada e vengono sfruttate, prostituite, senza avere con pochi euro in cambio, dato perché la maggior parte dei soldi che prendono va ai loro magnacci o papponi, come meglio si dica. Specialmente ricordiamo il traffico che viene dall'Albania, dalla Romania, da tutti i paesi dell'est, che ringraziamo Pontifex, il nostro sponsor ufficiale, il sito di estremismo cattolico, blog cattolico di informazione, news, attualità, interviste, catechesi, editoria, apologetica, Vaticano e dintorni. Diciamo che questi porci di Pontifex sono... Andate sul sito Pontifex e leggete. Salutiamo Lupino da Londra, però stavamo parlando di Pontifex. Non so se Lupino c'entra con Pontifex. Ah, ce l'ha suggerito lui, dato che lui di solito va a leggere Pontifex. Lui è un praticante di questo sito. No, comunque là scrivono un sacco di stronzate e inviterei la gente ad andare a leggerlo per capire che ci sono... questi estremisti cattolici che diciamo che fanno un po' di cacate. Oh, mandiamo un pezzo di Manu Chao, Ciccio, il tuo amico Manu Chao, quello che ha scritto il pezzo Clandestino. Io lo vorrei dedicare a Pierpaolo, che è emigrato dalla sua terra per andare a lavorare al nord. Purtroppo il nostro amico Pierpaolo, che non ci sta ascoltando perché non ha internet, è andato a lavorare al nord, a Livorno, Pisa, lì, giù di lì, e non ci ascolta, però glielo dedichiamo, poi ascolterà il podcast in futuro. E non dire Pisa giù di lì, perché Pisa-Livorno c'è una guerriglia. Sì, per ora però verranno accorpate nella stessa provincia e quindi ne vedremo di belle. Volevo spendere una parola sull'accorpamento delle province, che... tutti parlano in Italia di questo accorpamento delle province, Pisa con Livorno, Catanzaro con Crotone, materia potenza, non lo so, altre cose del genere. Però nessuno parla, e questo qui è il problema, secondo tutti stanno scendendo in piazza per salvare le province, ma in realtà il problema maggiore è che le province passano ad organi di secondo livello, cioè non vengono più elette dal popolo direttamente, ma vengono elette dai comuni. Quindi, più o meno come viene fatto ora con le comunità montane, quindi ci sarà una perdita incredibile di democrazia. Ed è questo qui il vero problema, non l'accorpamento di alcune province, che diciamo che ci può stare, alla fine sono stronzate, però il vero problema è questo declassamento. Ora andiamo con Manu, ciao, e salutiamo Pierpaolo. Ciao Pier. Rieccoci, rieccoci online, sempre in diretta, clandestino CD non ammette repliche come qualcun altro, non ripete, clandestino CD non ripete. E dopo aver dedicato questo pezzo al nostro amico Pierpaolo, che è stato costretto ad emigrare dal sud Italia per andare nel centro-nord, diciamo, non è proprio nord la Toscana, però è sempre più nord della Calabria, quindi è dovuto andare, è dovuto emigrare per questioni lavorative. Purtroppo sappiamo benissimo che qui al sud la solita retorica che non c'è lavoro, bisogna andarsene, bla bla bla, sappiamo. E speriamo che Pierpaolo torni presto a trovarci, che ci manchi. E vabbè, ci ha visti ieri Pierpaolo, però non ci manchi, ma aspetta una settimana e poi ci mancherai. Torniamo a parlare di Tarlo, che è il nostro inviato da Roma, che ci ha mandato un articolo. L'articolo di Tarlo è i pirati italiani all'arrembaggio, Yo-Yo candidato al Campidoglio. Il partito Pirati Italiani scioglie le riserve e punta decisamente a sinistra. Il Movimento per la Libertà Digitale ha deciso di puntare alle elezioni europee del 2014 e di costruire una roadmap che ha diverse tappe interessanti. La prima è quella della collaborazione con diverse realtà di movimento. La seconda è la presa di distanza netta con Grillo e il Movimento 5 Stelle. Grillo, il capo dei qualunquisti, diciamo che è la persona più demagoga in Italia, addirittura più di Vendola, quindi a livello di demagogia stiamo parlando di elementi di spicco. E questi pirati hanno fondato un partito e a livello nazionale qualcuno ci comincia a mettere gli occhi sopra, come l'IDV. E a livello locale, per esempio a Roma, il movimento sta iniziando a muovere i primi passi concreti. Tra le varie iniziative sponsorizzano la candidatura di Joseph Temane Tewalde, lunghi dread, viso pulito e occhi verdi, che brillano e meravigliano sulla pelle scura, ne tradisce le origini eritree. In pratica ci sono questi partiti dei pirati che sono per le libertà digitali, che si vogliono candidare alle elezioni. E chissà come andrà a finire. Noi siamo dalla loro parte, non lo so. Tarlo è dalla parte dei pirati e lui penso che li voterà. Noi ci informeremo meglio e vi faremo sapere nella prossima puntata. E a proposito di politica italiana, perché Peppe ogni tanto nella camera lavora, non pensare che passeggio ne basta. No, perché Peppe è molto chiuso a livello di questo discorso, pensa che i senatori politici in generale non facciano nulla, no, lavorano, e lavorano anche a ritroso con i tempi, perché dovete sapere, cari italiani, che i figli naturali, come quelli nati da un matrimonio, saranno uguali anche per la legge. Pensa un po' che trionfo, Peppe, nel 2012, 27 novembre 2012, finalmente in Italia i figli saranno tutti uguali, anche quelli nati fuori dal matrimonio, ti rendi conto? Cioè, mentre in Francia si sta pensando, non lo so, a legalizzare, cioè a rendere comunque lecito a livello statale il matrimonio gay, qui in Italia ancora combattiamo i mulini a vento, non lo so, ancora i figli fuori dal matrimonio non erano tutelati a livello di legge. Cosa che ancora di più fa pensare è la proposta dell'UDC, che alla fine aveva detto tralasciamo via i figli nati da rapporti incestuosi e violenti. Naturalmente, Peppe, perché una donna che viene violentata, che viene stuprata, lei gode di questo trattamento e in più il figlio che nascerà deve portare sulla testa sempre l'etichetta di bastardo e non poter comunque accedere alla società come normalmente si fa. Situazioni, Peppe, che non lo so, fanno un po' ragionare e dovrebbero far ragionare e svegliare un po' le persone che comunque ancora sembrano ciechi davanti a tale realtà. Altro argomento che volevo toccare era quello un tema molto scottante ma anche serio, è quello dell'eutanasia, Peppe, perché come accade anche in Inghilterra praticamente è successo giorni fa che una ragazza anoressica ha deciso di morire di sua spontanea volontà e il giudice dice no, nutrizione forzata. Nutrizione forzata, Peppe, la vediamo anche, ci sono stati tantissimi casi anche in Italia di persone che comunque non hanno cioè la propria libertà nel decidere se morire o vivere, ma vivere in quale condizione? A riguardo volevo consigliare un bellissimo film a tutti i nostri ascoltatori che si chiama Mare Dentro, che tratta appunto il tema dell'eutanasia, di un uomo spagnolo che praticamente a causa di un incidente si ritrova su un letto a muovere soltanto gli occhi e la bocca e a chiedere al governo la propria libertà, la libertà a morire, non voler condurre una vita in quel genere. Chiudendo la parentesi a prenderla, quella della vita, la vita che è comunque qualcosa di favoloso, ma un uomo che si rende conto delle proprie facoltà, stare, non lo so, 20-30 anni sul letto e prende la decisione di morire, non gli viene concessa questa libertà. Alla fine, naturalmente, Peppe, quest'uomo muore suicidandosi per conto suo. Vabbè, penso che noi di Clandestino siamo assolutamente a favore dell'eutanasia. Se uno, ognuno può decidere la propria vita in maniera indipendente, non può certo decidere un giudice se io devo morire o devo vivere. Se una persona ha una grave malattia e non vuole soffrire, che sia l'eutanasia. Non è che ognuno è maggiorenne oppure decide la propria vita. Perché se posso decidere se comprarmi un paio di pantaloni blu o un paio di pantaloni rossi, non posso decidere se vivere o morire. Ogni passo di una vita di una persona deve essere indipendente dai giudici e da chiunque altro. Comunque volevo fare una rettifica per quanto detto prima. In pratica, il nostro inviato di Roma, Tarlo, ora ci ha esposto meglio il discorso, che il partito pirata sta portando avanti una provocazione, cioè Yo-Yo sindaco, che è ineleggibile perché non ha la cittadinanza italiana, non è stato destinato a Roma, e questa qui è una cosa assurda. Io che nasco in Italia non sono cittadino italiano. Come faccio a essere cittadino italiano? Dove devo nascere? C'è gente che è nata in Svizzera ed è italiana, mentre gente che nasce in Italia non ha nessun diritto. Noi siamo a favore di questa della cittadinanza siamo contro la cittadinanza. Noi non vogliamo nessuna cittadinanza, tutti senza cittadinanza e senza confini per il mondo. Ognuno deve essere libero di poter andare dove vuole e dove meglio crede. Evviva il, come si dice, Ciccio, quando può andare da tutte le parti? Essere cittadino del mondo, essere libero. Libertà si chiama proprio. Si chiama libertà. È una parola bellissima che purtroppo ai nostri governanti non piace. Ci vogliono controllare dall'alto, come un grande fratello. E andiamo con un pezzo dei Rolling Stones, Ciccio. Un gruppo che a te piace tanto, vero? E anche a Valterino piace. Sì, lo dedico principalmente al nostro ascoltatore Gian Domenico, che ce l'aveva consigliato la volta scorsa. E facciamo tanti auguri a questa fantastica band che compie i loro 60 anni. No, facciamo gaffo, Peppe, sui Rolling Stone. Sono del 62, 2012. Appunto. Va bene, passiamo il pezzo, dai. Thank you. eccoci ritornati in studio con Ciccio che trova sempre le notizie più particolari, diciamo. Ciccio, di cosa ci volevi parlare ora, dopo la storia dell'altra volta, del pene painting? Sì, l'altra volta abbiamo parlato praticamente di questo nuovo artista, Picasso, che praticamente faceva opere d'arte con il proprio pene. Allora, tante sono state le domande dei nostri ascoltatori, e una di queste era quella: ci sarà anche una donna che pratica comunque arte con il proprio corpo? E la domanda di Clandestino di questa sera, cioè Clandestino vuole rispondere a questa domanda dicendo sì. Il nome è leggibile, vi leggo soltanto il cognome, che è Kubota, e praticamente pratica vagina painting. La donna praticamente, l'uomo giustamente avendo il fallo, riesce ad operarlo comunque come un pennello. La donna alla fine, infilando comunque un pennello nella propria vagina, riesce a fare delle opere d'arte, comunque a disegnare con la propria vagina. Ed è proprio questo comunque che diventa un tema toccante, perché questa artista Kubota pratica quest'arte appunto per una rivalutazione del sesso femminile, e il tema principale appunto è quello dell'emancipazione femminile, che praticamente sono i capitoli delle proprie performance. Bene, Ciccio, tu ci delizi sempre con queste notizie particolari che non so dove vai a trovare su internet. Non so perché le vai a cercare, soprattutto queste notizie particolari. Comunque, dopo questa straordinaria notizia, è che ricordiamo che le forme d'arte vanno tutelate. Quindi, se uno vuole dipingere con il proprio pene, con la propria vagina, che lo faccia. Cazzo, io lo vedrebbe qualcuno. Mandiamo un pezzo dei Timoria, Ciccio. Che pezzo è, Ciccio? Pezzo dei Timoria che vi presenta questa sera Clandestino Cid, sempre in onda su Fuori Onda Radio, è 2020 volte. 2020. Si ritorna su Clandestino Cid in onda ogni lunedì alle 22 su Fuori Onda Radio e il venerdì la replica sempre su Fuori Onda Radio. Adesso ci spostiamo un po' a Oriente. È una canzone anche dei Timoria, parlava verso Oriente, Peppe. Praticamente anche dei Nomadi, sì, Peppe. Non voglio togliere niente a nessuno. Comunque la notizia è del Partito Comunista Cinese. Praticamente l'ex segretario ormai del distretto di Chongqing è stato espulso dal Partito Comunista Cinese dopo la pubblicazione nel web di un sex tape che lo vede protagonista. Peppe, ma cioè, ancora ti rendi conto, no, l'occultezza del Partito Comunista? Svegliatevi, in Italia lo fanno tutti, e lì andate a togliere il posto di lavoro a un segretario perché? Perché ha fatto sesso con una minorenne. Non mi sembra proprio il caso, no? Qui in Italia se lo fai diventi Presidente del Consiglio. Un divo diventi e lanci una moda per le future generazioni. Il divo era Andreotti, forse. E penso che avrà scopato anche lui abbastanza, no Peppe? Che dici? Diciamo che Andreotti non solo ha scopato, ma ha fatto anche tanto bene, diciamo, rapporti con la mafia e altre cose belle. Diciamo che Berlusconi non è stato secondo al suo predecessore, Giulio Andreotti, che ricordiamo che lui esiste da sempre, è sempre stato e sempre ci sarà. L'unica cosa che è nato prima del Big Bang, Andreotti, e starà qui dopo, anche dopo il 21 dicembre, dopo la fine del mondo. Quindi comunque volevamo ricordarvi che Clandestino Cid per il 21 dicembre farà uno speciale, mentre finisce il mondo ne facciamo una puntata, così finite il mondo insieme a Clandestino Cid. Ciccio, che ne pensi? Sì, facciamo uno speciale, magari lo invitiamo, dai, lo invitiamo, cerchiamo di contattarlo. No, secondo me portiamo qualche Maya, vediamo se riusciamo a trovare qualche discendente dei Maya, lo portiamo qui, facciamo la puntata speciale, facciamo Clandestino... Boh, che ne so, 21-12-2012, The Hand, e mettiamo, l'ultimo pezzo sarà quello dei Doors. Bella idea, no Ciccio? Peppe, entriamo negli annali, stiamo attenti. Ok, passiamo all'altro pezzo che è The Velvet Revolver. Praticamente ci scusiamo perché notate la trasparenza di Clandestino Cid. L'altra volta parlando di Slash cioè, si è ammeccata al fatto che sia bruttino. Ci ha risposto, ha detto mandandoci delle foto. E comunque ci scusiamo con Slash e gli dedichiamo questo pezzo, Slighter. Vai con i Velvet Revolver. We'll be right back. si ritorna qui su Clandestino Cid, sempre occupata P2. Ricordiamo che il giorno 12 dicembre si terrà una serata in favore dell'ambiente, musica per l'ambiente, e verranno coinvolti comunque tutti gli artisti in ambito musicale e non solo. Infatti, se qualcuno vuole proporre, non lo so, altre forme d'arte, è libero di farlo e di esprimersi. Ricordiamo che è una jam session dove chiunque può partecipare, basta venire qua, si prende uno strumento, uno e suona, anche se non è in grado di suonare. Il palco è aperto a tutti, è la terza edizione di Musica per l'Ambiente, quindi è conosciuta, nell'ambiente è conosciuta Musica per l'Ambiente, quindi venite numerosi il 21, no, il 12 di dicembre, quello del 21 c'è la fine del mondo, quindi potrebbe essere l'ultima Musica per l'Ambiente, state attenti. Però vedo che ti ha colpito molto sto fatto del 21, ci pensi, travisi le parole, invece del 12-21, ci stai pensando veramente quindi, eh? No, in realtà non me ne frega niente del 21 dicembre, figurati se credo a queste dicerie che si usano soltanto per vendere libri, per vendere film, per fare documentari tipo Voyager, che sparano stronzate a dir basta, che tipo, come si chiama quello di Voyager, Ciccio? Giacobbo, quello lì è, ad ogni due servizi c'è, si parla del Sacro Graal e degli alieni, e del 21 dicembre. Quindi almeno possono variare tre argomenti a rotazione, tipo Clandestino che ci accusate di essere ripetitivi, ma non è vero. Noi innoviamo sempre, parliamo sempre notizie nuove, fresche, dell'ultimo momento, come parliamo di Timoshenko. Parliamo di Timoshenko, vai Ciccio. Bene, Timoshenko che praticamente è l'ex primo ministro ucraino, che praticamente è in carcere, è in carcere. E praticamente cosa è successo? Il sindaco Alemanno ha pensato bene di esporre nella capitale Roma un cartellone, uno striscione molto evidente con fotografia annessa e sotto c'era scritto praticamente libertà per Yulia Timoshenko. Gli ucraini, il popolo ucraino subito ha risposto a questo cartellone mostrando non altro, praticamente c'è Silvio Berlusconi sorridente dietro le sbarre spezzate di una prigione, e in risposta a quello di Yulia Timoshenko praticamente hanno pensato bene di risponderle ad Alemanno con giù le mani da Berlusconi, per colpa sua l'Italia ha perso milioni. Comune di Roma, sostieni non solo quello ucraino ma anche il tuo ex premier. In sostanza, Peppe, il messaggio è quello che praticamente ha ribadito anche il portavoce ucraino, praticamente è meglio che ognuno guardi al proprio paese e non mette pressione agli altri. Infatti, Peppe, sul fronte mondiale ma anche quello europeo, penso che noi italiani abbiamo poco da ridire in confronto agli altri paesi, e dovremmo un po' pensare su quello che succede da noi. Magari che facciamo? Prima analizziamo la nostra condizione e poi spostiamoci oltre. Comunque volevo salutare Emilio Fede, dopo aver magari scopazzato e toccato tutte queste belle ragazze, adesso arriva dal tribunale dicendo: Ruby era brutta e puzzava, però prima ci sei stato. Complimenti Emilio Fede, ci manchi al TG5, ritorna TG4, scusate. Sì, infatti ci faceva fare belle risate per chi seguiva il TG4. Diciamo che le sue gaffe sono passate agli annali, Striscia la Notizia, YouTube sono piene dei video di Fede che fa strafalcioni. Comunque partiamo con un altro pezzo dei Mellow Mood, We Are Home, che è inglese, dopo che è venuto il ragazzo palestinese ho imparato l'inglese, tu pure rima. Thank you. four things I told, four things I said. Wish I spoke the truth every day. So I thank the Lord for right to express. And glory to Jah Rastafari, yes. Cause when I go down through the veil of Babylon, bring myself away for so long. But through the eyes of a wise, what seems to be nasty is so beautiful. Jah words still linger on. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Because of that roots we are come, where the roots we are go. Glorify is coming. Roots we are come, where the roots we are go. Glorify is coming. Street kings, man, I no stop war. Jah Rasta feel it all in his soul. Man bless their gangs and tanks, but I lose their war. They in a dirty game of silver and gold. They massive the rim without any care. First thing they say to be so wrong. But I night on the earth, we can save ourselves from fall. I know that is for sure. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Because I know that you know Jah Jah live on the road to Zion. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Baby, you got a don't go to down, cry along, girl. Jah Jah write another song. Because of that roots we are come, where the roots we are go. Glorify is coming. Roots we are come, where the roots we are go. Glorify is coming. E dopo questo pezzo noi di Clandestino vi salutiamo, vi auguriamo la buonanotte, ci ascoltiamo perché non è, la radio non è con un telefono, però potete contattarci su Facebook, sul nostro contatto, e ci ascolterete se volete lunedì prossimo sempre alle ore 22 su Fuori Onda Radio, la radio che lotta nell'etere e nell'Eternit, che è pieno il mondo calabrese e non solo. E vi auguriamo la buonanotte e niente, Ciccio, vuoi salutare anche tu? Sì, saluto tutti gli ascoltatori. Stasera è meglio finirla qui, Pep. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto il coraggio di ascoltarci e coloro che ancora non ce l'hanno, che trovino un giorno questo coraggio. Vi abbraccio e vi lascio con l'ultimo pezzo della serata, Clandestino Cid. Vi saluta Aquarius Led Session.